Rientrata in camera sua, quella stessa sera Xenia andava chiedendosi che cosa intendesse fare con lui. Intanto si spogliava, riponeva gli oggetti, per convincersi che quel pensiero non occupava tutta la sua mente. Un ragazzo, pensava, nient'altro che un ragazzo. Però si inteneriva ricordando quel modo di ridere di Maurice, che esplodeva improvvisamente, risuonava un attimo, secco e nervoso, e rapido si placava, lasciando negli occhi di lui un sorriso evanescente come la spuma di un'onda che si ritira sulla sabbia. Un ragazzo! E però, adesso, l'amore per la solitudine diveniva frettoloso. Le ore della giornata le parevano interminabili. Prendeva in macchina le due ragazze e andava in giro con loro, sperando di incontrare Maurice. Durante il giorno chissà dove si nascondeva, forse avrà un'amica. È naturale alla sua età, avrà un'amica. Lui invece spiegò che a quell'ora dipingeva. Molta gente in albergo ballava fino a tardi la notte. La musica suonava ininterrottamente, dando appena un minuto di respiro. E le coppie affaticate parevano trascinare attorno per la sala lo sforzo di divertirsi. Quelli che non ballavano guardavano seduti a tondo intorno alla pista. Le coppie giravano come figure di un carosello, s'allontanavano, ritornavano, s'allontanavano sorridendo, sorridendo ritornavano. Il fumo stagnava nell'aria come una nuvola afosa. Senza darsi più pensiero della gente, Xenia e Maurice si isolavano. Passavano sotto gli occhi delle ragazze strabiche che sorridevano loro con simpatia e andavano a sedersi in un angolo. Parlavano a lungo di cose personali, per quell'ansia di conoscersi che domina i primi incontri. Egli raccontava della sua infanzia, ricordava il rammarico provato da ragazzo quando sua madre non voleva farlo scendere in cortile a giocare con gli amici. Aveva a momenti aria di ragazzino per bene che ancora risentivano di quella proibizione. Se ricordava quel fatto era perché senza vedersene se ne accorava ancora. Certi dolori infantili incidono tutta la vita. Ero da bambino piuttosto taciturno, amante della solitudine, raccontava. Mi credevano malaticcio perché per raccogliermi nel mio silenzio dicevo sempre di avere mal di testa e non capivano. I grandi non capiscono mai i bambini. Certe volte mi accadeva di sentirmi sdoppiato. Un'altra persona si staccava da me, non un'ombra, ma una creatura vera, viva, con un suo nome, René. Sapete chi era René? Un personaggio creato dalla mia fantasia, l'essere in certo modo che io sarei voluto divenire, pittore, naturalmente. Io passavo con la mamma lungo un fiume, ad esempio, e René mi camminava accanto con nobilissimo passo, composto. C'erano sul fiume mobili chiazze d'ombra, ove si specchiavano lampioni che per ondulare dell'acqua sembravano palloncini legati a un filo. La mamma non mi permetteva mai di fermarmi, mi tirava per il braccio. René invece apriva la scatola dei colori, s'appoggiava sul parapetto per dipingere e io, sapendolo lì beato dell'arte prediletta, m'allontanavo consolato. In me una soddisfazione di vendetta compiuta. Poi arrossiva e si scusava, sciocchezze, vero? Ma ero così. Voi siete la prima persona alla quale racconto queste cose, l'unica. Chiese a Xenia perché avesse quel nome, se le venisse da qualche parente russo. Russo? Oh, no, no. Mi chiamo così da un romanzo che mia madre leggeva quando aspettava che nascessi, l'eroina di un romanzo che le piacque. E pensò che molte cose nella sua vita erano dipese dal fatto di portare in un paesetto quel nome straordinario. Tutti se ne sorprendevano. Xenia? Ti chiami Xenia? Che nome è? E poi brutto, dicevano, o bello, o buffo. Ma insomma dicevano qualche cosa. Era un nome raro, che si scriveva con una consonante rara. Certi nomi sono impegnativi, non si può portarli come altri più semplici. Xenia? Maurice disse: Vuol dire straniera? Egli parlava senza smettere di interrogarla con lo sguardo, attonitamente rispettoso. La musica suonava e loro tacevano a lungo. Xenia appoggiava la testa sul divano. Stando così, egli una sera le prese la mano, lievemente, come per gioco. Ormai non potevano più stare separati. La grande macchina di Xenia rimaneva in garage. Maurice veniva a prenderla con la sua piccola macchina francese vecchiotta che usava chiamare sorridendo Mabone Louise. Andavano a spasso, parlavano avidamente come per rifarsi del tempo passato lontani. Xenia era proprio orgogliosa che lui fosse campione di tennis. Maurice era così magnificamente giovane. In fondo, egli diceva, la vita che faccio non è quella che vorrei. Mi piacerebbe abitare un'antica città di provincia in una casa alla Proust, piena d'ombre e col granaio, avere un grande studio, mobili scuri, massicci e un soffitto a volta altissimo che si perdesse. La finestra sulla corte, una corte con la fontanina o un pozzo come dinanzi a certe case di Venezia. E lì starmene a lavorare, suonare violoncello, questo vorrei. E invece che faccio? Ho bisogno della doccia, dell'automobile, vedo gente, mi ci diverto. E la vita che faccio in fondo mi soddisfa. Ma è così per tutti, credimi, nessuno è contento della propria vita. Idealmente sempre ne cerchiamo una migliore, eppure da quella che viviamo non usciremo, perché si è venuta formando sul nostro carattere, a nostra insaputa. L'altra non è che un'aspirazione estetica. Non so. Per me non è così, forse. Io porto in me da anni questo desiderio di abitare una vecchia casa mia. La mia famiglia un tempo aveva un castello nel nord della Francia, in Vandea. Conosci la Vandea? Un popolo duro, segreto. Puoi vivere in mezzo a loro 100 anni e mai li comprenderai bene. Il sabato e la domenica si può visitare il castello. Io ho voluto andare a visitarlo in uno dei miei viaggi, ma sono rimasto male quando ho dovuto pagare l'ingresso. Pagare per entrare nella casa dei miei. C'è ancora lo stemma nella corte, il nostro stemma. Ho girato ore e ore nel castello, solo, dai sotterranei alla torre. Ho visitato tutto minutamente. I muri mi chiamavano. Dalla finestra della torre si dominava il parco boscoso, si scorgevano montagne ferrigne e nude, ma il parco era così bello e il prato dolce e invitante e l'acqua del fossato così chiara e luminosa che sentii sorgere in me l'impeto di buttarmi giù. Fu un attimo. Non so come mi trattenni. Perché volevi farlo? Non so. Credo che fosse perché la mia vita, di fronte alla vita di quel castello, nel quale gente del mio sangue aveva vissuto, aveva lasciato traccia. La mia vita presente mi sembrava desolatamente vuota. Che cosa ho raggiunto finora? So fare tante cose, ma nessuna perfettamente. Dipingere. Non ho avuto nessun vero successo. Certe volte penso, gli altri riescono perché hanno fortuna. Si ha sempre paura di riconoscere che gli altri riescono per ingegno. Sono un mediocre pittore io e la mediocrità in arte mi inorridisce. So giocare bene a tennis. Ma che conta il tennis? Che cosa conta nella storia? L'abilità di un giocatore di tennis. Invece ha talvolta lo spirito dei cavalieri di Ventura, talvolta quello del provinciale. Viaggio, mi arrischio, sì, ma in fondo mi piace avere il pane sicuro. Una contraddizione sono, tutta una contraddizione. Quando sono occupato in opera dello spirito, il corpo si ribella e chiede l'aria, il sole. Quando faccio lo sport, penso ai quadri che sono incompiuti, alle bellezze che sono per il mondo e che non conosco. Erano meno distratti di noi negli altri secoli. Oggi è molto difficile essere giovani, appunto perché tutto è tanto facile e vario. Insomma, non c'è nulla di intero e valevole in me se non l'amore che ti porto. Ed era questa incertezza di lui che l'amava. L'entusiasmo con il quale cercava di conoscersi e quella limpida chiarità che gli illuminava gli occhi. Dimmi del tuo passato, Maurice le chiedeva spesso. Ti sei sposata molto giovane? Molto, lei rispondeva. E subito divagava, non sapendo mentirgli, raccontare la solita storia. No, no, non a lui. Niente. Xenia pensava, niente contava più se non lui, Maurice, i suoi occhi, la sua nuca magra, le labbra che parevano imbronciate. Ascoltare Maurice parlare, andare con Maurice nella vecchia vetturetta in gita fino a Cannes, fino ad Antibes, vederlo muovere con quei gesti graziosi e misurati, amarlo senza pensare a nulla, beati come quando si è soli. Egli abitava una casetta remota, nei giardini prossimi al campo di corse. Vieni? Le chiese. Sì, verrò, Xenia promise. E lui non chiese quando. Alla fine del mese Xenia sarebbe partita, ma Maurice non se ne rattristava. Che importa? Diceva. Io verrò a Milano. Ti prendo sulla macchina, facciamo dei piccoli viaggi. Io potrò rimanere anche un mese, 2 mesi a Milano. E tu verrai a Nizza ogni inverno. E lei prometteva, sì, che questo era molto facile. Maurice non sapeva che c'era Horsch a Milano, che aveva la chiave della villa, che senza di lui Xenia non sarebbe stata la baronessa Costantini, senza di lui mai avrebbe messo piede a Nizza. A lui doveva i vestiti che metteva per piacere a Maurice e tutto il resto. Raimondo l'aspettava e non si poteva continuare così. Bisognava finire. Perché vivendo con Maurice, Xenia aveva scoperto qualcosa di molto importante nella vita: la gioventù. Xenia aveva soltanto 23 anni, ma non doveva abituarsi al sapore della gioventù. Dopo non avrebbe più sopportato di rinchiudersi in una vita di benessere puramente materiale. Solo essendo l'amante di Horsch poteva avere l'amore di Maurice. Egli l'amava come ella era, credendola ricca, le proponeva cose, viaggi costosi, disegnava di recarsi con lei in Argentina, voleva andare là per dipingere certi laghi stretti e lunghi come fiordi che riflettono la neve vergine delle montagne. Desiderava costruirsi una casa in una penisola che si chiamava Lau Lau. Ma, pensava Xenia, se avesse saputo la verità, Maurice l'avrebbe lasciata con l'intransigente durezza dei giovani. Non sopporto che uno solo dei tuoi pensieri non m'appartenga, le diceva sovente. E Xenia non poteva dargli nulla, perché nulla di lei le apparteneva, neppure il passato. Vicino a Maurice si sentiva giovane, come certe sere al collegio, quando si mettevano tutte insieme a ridere e a cantare. Le suore aprivano la porta, intimavano il silenzio e loro non potevano smettere. Qualcosa era più forte della loro volontà di ubbidire. Così come lei e Maurice avevano tentato il primo tempo di nascondersi e poi non era stato possibile. Ma la gioventù che si viveva in collegio era una gioventù compressa, porte e finestre sbarrate, un'attesa afosa, mai un filo d'aria nuova. Con Maurice, invece, era l'espandersi fresco, vivace, rigoglioso della gioventù. No, Xenia poteva avere tante cose, ma questa doveva rinunciare. Se no, mai più avrebbe potuto trascorrere una sera nella foresteria del circolo, tra le vecchie pance degli industriali, ascoltando i discorsi di Horsch. Mai più toccare le mani flaccide di lui, la grassa bocca. Il grido di repulsione che da tempo tratteneva in sé sarebbe esploso e lei gli avrebbe gridato in faccia: Vattene, vattene, ho ribrezzo di te! E poi avrebbe gettato il nome di lui, forte, Maurice, come per difendersi. E Horsch, dopo averla salutata con un inchino, avrebbe chiuso silenziosamente dietro di sé la porta della villa e l'avrebbe abbandonata, e la vita di Xenia sarebbe rotolata nel buio. Era buono Raimondo, non meritava che lei lo ingannasse. Certi aspetti di Horsch le sfuggivano, capiva che molte cose nella vita di lui le sarebbero rimaste sempre sconosciute, e però sentiva che in fondo a lui soltanto ella poteva mostrarsi qual era, con la sua ambizione, la sua rapacia. Raimondo la capiva. C'era tra loro due una segreta affinità, quella d'arrivare dove si voleva con qualunque mezzo. Cercava di convincersi che nulla amava veramente al di fuori della sua solitudine e del suo benessere. Una camera nella piacevole penombra, e i fiori, e il libro, e le sigarette, i dolci, immersa in un silenzio soffice. In quelle ore la pace scendeva su di lei e la bagnava come un'acqua miracolosa. Oh, viaggiare sola, confusa avanti alla natura, niente mi piace più della natura. E sentire agitarsi nel petto le esclamazioni di meraviglia che doveva rattenere e che le scatenavano dentro una grande commozione. Quando si viaggia in due, dire al proprio compagno "È bello" già distrugge metà dell'incanto, già scarica. E poi, pensava, la gioventù passa, la bellezza passa. Tutti ci lasciano soli, bisogna abituarsi prima a non soffrire di essere soli. Niente mi piace di più della solitudine. A Milano La casa nuova, un morbido divano, il libro, la penombra, le sigarette, magari uno di quei dischi rock. Sì, rinunciare bisognava. Mai andare nella villetta dei giardini che Maurice, arrossendo, aveva descritto in gombra di colori e cavalletti. Non più vederlo giocare al tennis, i muscoli delle gambe tesi fuori dei brevi calzoni bianchi. Mai più nulla. E questo l'angosciava. L'angosciava, andarsene subito. Insistenti, ossessionanti, le ritornavano alla mente alcune espressioni di lui e l'aria umile con la quale le chiedeva: «Mi vuoi bene?» Passò la notte in un dormiveglia finché piombò in un sonno profondo e nel sonno le apparve Maurice. La conduceva lontano, in Argentina, nella casetta della penisola di Liao Liao. Lei piantava fiori mentre Maurice faceva i bagni di sole. Poi sognò che Maurice, disperato per la sua partenza, voleva gettarsi dalla torre del castello. Stava dritto sul davanzale della finestra, spingeva il piede nel vuoto. «No, Maurice, no!» Di soprassalto si destò. Il cuore le batteva furiosamente. Era tardi al mattino. Si calmò a poco e su di lei scese una rassegnata tristezza. Si fece dare Milano al telefono. «Pronto?» Disse a Horsch, che era stufa di stare a Nizza. Domani incominciava il carnevale, troppa baldoria, troppa gente. Se ne tornava a Milano. Mi vieni incontro a Genova? Se vuoi, Horsch rispose, nella voce una repressa gioia, non intaccata dal tono svanito con il quale Xenia parlava, guardando nel vuoto avanti a sé, assente. Domani mattina a Genova. Restò così, su queste parole, seduta nel letto, le mani intrecciate. E aspettava di sentire in sé d'improvviso il sollievo della decisione presa. Ecco, è fatto. Parto, me ne vado e mi libero. E invece, dentro di sé, nel petto, in gola, le si formava un nodo che le rendeva faticoso il respiro. Basta, arrivo a Milano, mi compro tanti vestiti. Non c'è niente di più divertente che comprare dei vestiti. Cercava di immaginare come sarebbero stati quei vestiti e invece rivedeva Maurice seduto al volante della Bonne Eloise. Sarebbe venuto a prenderla nel pomeriggio. Avrebbe provato un gran dolore. Partita? Sì, partita. Scappata. Un'altra fuga. Liberarsi di queste pazzie, vedere la vita com'è veramente. Se seguito a star qui rovino tutto. Arrivo a Milano e subito mi occupo della villa, organizzo il bar nella cantina. È piaciuta anche a Raimondo l'idea. Com'è contento di rivedermi, Raimondo, sì, già. Ma con Raimondo mai avrebbe potuto fare una corsa in un prato. Sarebbe stata una scena pietosa, una corsa in un prato con Raimondo. Maurice, con quei muscoli delle gambe tesi, le stava negli occhi adesso il viso infantile di Maurice. Maurice è giovane, anch'io sono giovane. Già, bella roba, non te la mangi mica la giovinezza. Vero, vero, ma non era colpa sua se non riusciva a togliersela di dosso questa maledetta giovinezza. Se n'era accorta qui a Nizza, specialmente quando era vicino a Maurice, dopo che lui aveva giocato a tennis e smuovendosi mandava attorno quell'odore di buon sudore e di sole. Maurice le aveva chiesto: «Vieni da me domani sera?» E lei aveva promesso di andare. A quest'ora sta rassettando i colori. «Ci vado, parto dopo, subito.» «No. Bella porcheria, e forse dopo non me ne andrei più.» Maurice diceva sempre: «Il primo viaggio che faremo insieme sarà a Siena. Lascio tutto e vado a Siena con Maurice. Tutti ci guardano quando stiamo assieme, io e Maurice. Raimondo a Genova domani, e domani sera viene e mi chiede: «Non sei stanca, vero cara?» Dio, Dio, Dio, come fare, Dio, a togliersela di dosso questa maledetta gioventù. Fa bene piangere, solleva, piangere forte come da bambini. Preparate il conto, per favore. Volete aiutarmi a fare le valigie, per favore? Fate scendere il mio bagaglio, 118, per favore.» Salita in automobile restò pensierosa, fissando la strada, il mare. C'era molta gente sul viale e lei se ne andava. Aveva fatto tutto a precipizio, ma era assurdo tutto questo. Che sciocchezza! E Maurice, Maurice, sarebbe stato meglio rivederlo, parlargli forse. No, bisognava andarsene subito invece, adesso, senza esitare. E però le sembrava che questa fuga fosse più importante e dolorosa della prima, come se ella dovesse addirittura fuggire da se stessa, abbandonare se stessa per sempre. Il portiere, con altro personale, era sulla soglia dell'albergo e attendeva che la macchina partisse, e Xenia rimaneva lì, ferma al volante, tentata di scendere. Certo, quelli si domandavano: che fa? Che aspetta? Ella indugiava. Non era facile andarsene, scappare. Finiva tutto con questa partenza. E come avrebbe potuto guidare se non vedeva chiaro avanti a sé per le lacrime che le appannavano gli occhi? Maurice, mormorò. Maurice, Maurice. Accese il motore, tolse il freno, ingranò la marcia, spinse l'acceleratore. Mesi e mesi che la guerra durava. Per le tre donne di Via Sistina l'attesa era divenuta consuetudine di vita. La politica, perdona Inès, una sorta di mania senile. Ne parlava con chiunque. Se andava nei negozi, parlava della guerra di Spagna al primo venuto. Una volta che si sentì chiedere: anche gli spagnoli si battono in Spagna? Ne fece una malattia. Cani siamo, cani, nient'altro. Era lei che teneva accesa la vita in casa. Le due ragazze erano malinconiche. Il silenzio di Pilar raggiungeva l'ostinatezza, non parlavano più neppure delle loro sofferenze. Adesso che era inverno, non essendo la casa riscaldata, si raccoglievano in un angolo della sala da pranzo. Lì avevano riunite le fotografie, gli oggetti più cari. Vinca correggeva i compiti degli allievi, accovacciata accanto al braciere. Le lezioni erano per lei grande sacrificio, ma non se ne lagnava. Donna Inés cercava di scuoterle, le incitava a badare alla casa che, trascurata talvolta per molto tempo, aveva assunto un aspetto disordinato e poco pulito, ma gli oggetti erano così numerosi che il disordine permaneva e le donne, scoraggiate, nascondevano i bauli sotto vecchi scialli spagnoli, tiravano tende con antiche stoffe, rendendo la casa opprimente, e a sera rimanevano accanto al fuoco, fino a tarda ora, spesso in silenzio. Nella strada si udiva calare una saracinesca, una voce si avvicinava, si perdeva, passava un'automobile e la luce dei fari rapidamente sfiorava la finestra. Da più di un mese Luis non dava notizie. Spesso, per consolare le ragazze, Donna Inés faceva le carte. Era come se per lenirle narrasse una favola. Senza scottarsi dal braciere, stendeva le carte sopra una tavoletta posata sui ginocchi. Diceva sempre le stesse cose: persona che ritorna, inquietudine, dissipata, lettera, sì, lettera, al massimo entro 3 giorni, e mostrava alle ragazze le due carte unite per rassicurarle. Tre di quadri, due di cuori, proprio così, non diceva bugie. E quelle, rassicurate da lei, attendevano. Eppure Donna Inés aveva la pena più grande da portare. Il figlio lontano, quell'ansia e quel brivido nella carne che provano soltanto le madri, e il continuo presentimento di qualche disgrazia che le correva per la pelle, e il vedere quelle due ragazze così scoraggiate e taciturne. Allora lei, quando le vedeva più abbattute, faceva le carte. Le faceva con serietà, anche se Pilar e Vinca, ascoltandola, neanche alzavano la testa. Le carte erano divenute le custodi della speranza, tre di quadri, due di cuori, posta entro 3 giorni. Tante volte erano passati 3 giorni e Luis non aveva scritto. Le lettere di Pepe non davano notizie di lui. Pepe era al fronte, Luis a Cordoba. Vinca si sentiva distante da lui, sbalestrata nell'infinito, e tuttavia tentava di racconsolarsi. Oh, io so come è fatto Luis. Non scrive e poi un giorno suona alla porta e ritorna. Non tornerà al fronte, vedrete, viene qui, deve studiare. E le altre la incoraggiavano, approvando. Certo, è così, è proprio il suo carattere. Ma stanca d'attendere, Vinca disse un giorno: perché mi incoraggiate? Sapete anche voi che non è così. Qualcosa è accaduto. È tornato al fronte, è morto. Tornando dalle lezioni, certe volte andava a letto senza mangiare. Pilar, entrando in camera, la trovava al buio, ne udiva il respiro affannoso, capiva che aveva pianto fino ad allora. Ma non sapendo che dirle, fingeva di credere che dormisse. Tutto ciò che poteva fare era di leggerle le lettere di Pepe. dove però non vi era detto mai nulla di Luis. Vinca si rassicurava pensando che se vi fosse stata qualche cattiva notizia, Pepe ne avrebbe parlato di certo. Una volta Don Inez propose, cercando di avere un tono naturale, «Andiamo al cinema stasera?» Non ne aveva voglia, nessuna voglia. Quando accompagnava i figli al cinema si metteva tra loro due e sonnecchiava, ma sperava che le ragazze, avvedendosi che esisteva un'altra vita, si invogliassero di tornare a viverla e si sciogliessero dal nodo di inerzia angosciosa che le stringeva. «Andiamo al cinema, dunque», ripeté con un sorriso allettante. Le ragazze, senza darle risposta, levarono verso di lei i loro occhi tristi. La guardavano per convincersi che veramente aveva fatto simile proposta. E allora lei, con un'aria convinta, «Bene», disse, «bene, come volete». Il giorno dopo arrivò una lettera di Pepe. Vinca era in casa e, vedendola nelle mani di Pilar, si illuminò. Soltanto quando capì che l'amica non accennava di rileggerla ad alta voce, chiese ansiosa, «Che dice?» Pilar, ripiegando la lettera e rimettendola nella busta, fece il solito. Che cosa? Niente di nuovo. E di Luis? Di Luis? Già, e di chi se no? Ah, di Luis niente. Fredda, Vinca disse, non è vero. Donna Inez, vedendo lo sguardo della figlia e la fretta con la quale aveva ripiegato la lettera, cercò di aiutarla. Ma se ti dice così, perché non deve essere vero? Vinca, senza badare a lei, insisteva. Si vedeva che forzava se stessa per mantenersi calma. Fammela leggere. Che dice di Luis? Niente. Giura. Che cosa? Che non dice niente di Luis? Ma certo, interruppe donna Inés. Son cose, sai bene, cose di fidanzati. Lasciala. È sua la lettera. E Vinca seguitava ad insistere duramente. Giura. Non è necessario. Fammela leggere allora. E si avvicinava minacciosamente. Pilar, infine, cambiando tono, implorò con dolcezza lacrimosa. Ti prego, Pilar. Non posso. Allora, portandosi le mani al viso, Vinca dette un urlo. È morto! Donna Inés pensò che adesso Vinca sarebbe caduta per terra fulminata. S'avvicinò per sostenerla, ma con meraviglia vide Pilar, pallida, color di terra addirittura, scuotere la testa, dicendo no, sta tranquilla, no. Giura! Le gridò Vinca. Giuro. Vinca le spiava gli occhi incredula. Non smetteva di fissarla. Temeva uno sguardo di intelligenza con la madre. Questa chiese con ansia: Ma che c'è allora? Non le pareva possibile che dopo quel viso tragico della figlia, Luis non fosse morto davvero. Pilar ripeteva: Sta bene, c'è una cosa. Non importa. Vinca andava ripetendo: Qualunque cosa, non importa, purché sia vivo. Ma forse hai giurato il falso. Ma in un caso simile non ha importanza. Poi la guardò fissa, dolorosamente, e la supplicò: Pilar, qualunque cosa sia, ti prego, anima, dimmi la verità. Vi fu un silenzio. Le tre donne si guardarono, attendevano. Pilar attendeva la forza necessaria per parlare. Un venditore gridò nella strada e quelle tre, così prive di volontà, lo ascoltarono e seguirono il suo richiamo modulato come l'unica cosa esistente ed importante. Una voce che era l'ombra della voce di Pilar, infine disse: Ha sposato.